While we're on the subject of verbs, here's another that is very similar. Parlare. To speak. You'll hear first the forms for lavorare, followed by those for parlare. Notice the similarities in the endings. Io lavoro. Io parlo. Tu lavori. Tu parli. Lui, lei lavora. Lui, lei parla. Noi lavoriamo. Noi parliamo. Voi lavorate. Voi parlate. Loro lavorano. Loro parlano.